Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi vi segnalo il libro di un grande scrittore del Novecento, forse il maggiore dell'Austria, ma soprattutto uno dei più importanti di lingua tedesca, è Thomas Bernhard, morto nel 1989, di cui Adelphi pubblica l'autobiografia curata da Luigi Reitani, divisa in 5 parti tradotte da Eugenio Bernardi, Renata Colorni, Umberto Gandini e Anna Ruscià. 636 pagine, 65 euro. Un'autobiografia, come vi dicevo, divisa in 5 parti: l'origine, la cantina, il respiro, il freddo, un bambino. Con queste parti che certamente sì, parlano del grande scrittore, parlano di Bernhard, ma rappresentano quasi un romanzo o 5 romanzi a sé, nei quali l'elemento dell'autobiografia rappresenta solo uno spunto per una fluviale riflessione sui temi cari allo scrittore austriaco. Si parte dalla guerra, poi la decisione improvvisa di andare dalla parte opposta, di andare a fare il garzone lasciando il ginnasio al quale tanto teneva il nonno dello scrittore, poi una malattia e altre tappe della vita di Bernhard raccontate in uno stile maestoso e concitato. Pensate per esempio che in tutto questo libro troverete soltanto un paragrafo, un accapo e poi è tutto un discorso che scorre. Eppure l'opera vi conquisterà, sono sicuro, fin dalla prima pagina, anche per l'assoluta imprevedibilità di molte posizioni, di molte decisioni assunte dallo scrittore nel corso della sua vita, che qui vengono spiegate a fondo. Ma sull'importanza di questo libro abbiamo sentito il curatore. Buongiorno a Luigi Reitani. Buongiorno. Luigi Reitani, secondo lei questa autobiografia è il modo migliore per accostarsi a Bernhard, o meglio, come accostarsi a questa autobiografia? Lei stesso, nella sua introduzione al libro, scrive e spiega che questo è più un romanzo di formazione che non una guida per capire l'opera dello scrittore austriaco. Ma ci sono molti modi per accostarsi a questo autore: andare a teatro, vedere i suoi drammi, leggere i suoi romanzi di inventiva, e c'è questa terza modalità, l'autobiografia. Sicuramente un libro che offre anche molti dati sulla vita e quindi anche fatti concreti, ma come ricordava lei è un romanzo di formazione. Un romanzo di formazione in solido, perché poi non si perviene in realtà a un approdo, a una conclusione, a un inserimento. Se vogliamo, la logica è esattamente opposta, quella dell'escursione, quella dello scrittore che vive la sua diversità come possibilità anche di analizzare e criticare il mondo. Però è un romanzo, è un grande racconto. Sicuramente è una lettura piacevolissima, nonostante la cupezza di certe atmosfere, che peraltro è temperata dall'umorismo di Thomas Bernhard. È senz'altro una lettura vincente, che ruba il respiro, che è incalzante, che non lascia tregue. Dunque, in questo senso, sicuramente un modo molto interessante e molto proficuo di accostarsi a un autore fra i più grandi del Novecento europeo. Uno dei temi centrali della riflessione di Bernhard in questo libro è la verità, perché lui stesso dice che scrivere una biografia significa corrispondere sia alla volontà di verità di colui che descrive la realtà, ma non corrisponde alla verità. Insomma, c'è tutto questo gioco fra cosa sia la verità, cosa sia la scrittura rispetto alla verità. Come commenta lei questa posizione di Bernhard? Ma è il paradosso che Bernhard ha formulato in una frase felicissima, spesso citata, è che ciò che conta è il contenuto di verità della menzogna. E dunque Bernhard abbandona l'ipotesi di poter raccontare tutto in un modo autentico e sincero, cioè il presupposto, diciamo, che alla base dell'autobiografia moderna da Rousseau in poi, e invece è convinto che quello che conti non sia tanto, come dire, la corrispondenza tra il racconto e il fatto, quanto piuttosto l'intento del narratore. L'autenticità è una cosa diversa, per così dire, dalla verità. L'autenticità sta nelle intenzioni, sta nel metodo seguito, sta nella procedura del racconto. Conto, o la verità, o meglio la corrispondenza tra parola e fatto, rapporto tra parola e cosa non esiste. C'è questo assunto che poi è l'assunto, diciamo, della lettera di Lochandos di Hofmannsthal, il baratro che si apre tra verità e parola. E dunque, se non è possibile restituire la realtà, allora bisogna ricostruirla attraverso il ricordo, attraverso la memoria. Sarà un'invenzione, ma sarà un'invenzione autentica. Ci sono due avversioni che colpiscono in queste pagine, alcune delle quali raggiungono veramente livelli di odio, quello per Salisburgo e quella per le scuole, perché Bernard ha delle pagine acuminate contro le scuole che ha frequentato, in particolare contro il ginnasio. Cosa rappresentano queste due critiche alla sua città e alla scuola del suo tempo? Ma direi che la critica a Salisburgo è la critica poi a un paradigma, a un simbolo della civiltà contemporanea, e naturalmente la cosa è anche molto sfaccettata, perché poi Bernard era spesso a Salisburgo perché ha collaborato con il Festival di Salisburgo, dove sono andati in scena molti suoi lavori teatrali, e quindi quando c'è un odio così, come dire, acuminato, come le diceva, c'è anche un rovescio della medaglia e c'è anche probabilmente un sentimento di amore verso la città. Non dimentichiamoci che Bernard, su esordi, scrive delle poesie su Salisburgo in cui la loda come la città più, come dire, più bella e più esteticamente più riuscita. In qualche modo è un capovolgimento di segno, un rovesciamento algebrico della lode della città. Questa invece è tirata così pungente, così carica di avversione verso Salisburgo. E però dietro Salisburgo c'è qualcos'altro, c'è la, come dire, l'estetica che nasconde gli orrori della guerra, c'è la rimozione del passato nazista, c'è una civiltà che ha dimenticato troppo in fretta le sue ferite, c'è una società che produce dei quartieri ghetto come quello in cui Bernard poi lavora, ma che finge che questi quartieri non ci siano, insomma una civiltà della bellezza, dell'opulenza, che però nasconde da una parte il passato, le sue ferite, e dall'altra emarginazione, violenza, infelicità. E la critica di Bernard a Salisburgo è questo, è la critica a un modello di convivenza e di società, quindi credo che trascenda ampiamente il carattere specifico di un luogo a cui pure Bernard dimostra di essere legato. Bene, grazie a Luigi Reitani. Buona domenica. Un altro grande del Novecento, questo spagnolo, è Miguel de Unamuno, vissuto tra il 1864 e il 1936, di cui viene pubblicato un libretto assai esile, contrariamente a quello di cui vi ho appena parlato, ma di grande valore, San Manuel Bueno, martire, pubblicato da Mesogea, 92 pagine, 12 euro, ed è tradotto da Marco Ottaiano. Siamo qui nella Spagna profonda degli anni 30, intrisa di valori tradizionali, molto attaccata alla religione, nella quale fiorisce la storia di un parroco unanimemente considerato un sant'uomo. Di quest'uomo narra le vicende una parrocchiana, il cui fratello, antireligioso e progressista, tornato nel paese da un viaggio lontano, vorrebbe far cadere il parroco Don Manuel, appunto, in trappola. Ma tra i due scoppia l'amicizia e in essa la scoperta che il prete non ha fede e che tutti i suoi sforzi vanno esclusivamente nella direzione di non deludere e di non far disperare il proprio gregge, il quale, senza il parroco e senza la fede, ritiene il prete, sarebbe smarrita. E a questa posizione convertirà perfino il fratello, che così spiegherà il suo approdo. «Allora, continuò mio fratello, ho compreso le sue ragioni e con esse la sua santità. Perché di un santo si tratta, sorella mia, di un vero santo. Non cercava, nel tentativo di guadagnarmi alla sua santa causa, perché si tratta di una causa santa, santissima, di arrogarsi un trionfo, ma lo faceva per la pace, la felicità, l'illusione, se preferisci, di quelli che gli sono stati affidati. Ho compreso che se li inganna così, sempre che di inganno si tratti, non è per fare carriera. Mi sono arreso alla sua causa, ed ecco dunque spiegata la mia conversione. Non dimenticherò mai il giorno in cui io gli ho detto: no, Don Manuel, la verità prima di ogni altra cosa. E lui, tremando, mi ha sussurrato all'orecchio, benché fossimo noi due soli in mezzo alla campagna: la verità, Lazzaro, può essere una cosa terribile, una cosa insopportabile, mortale. La gente semplice non ne sopravviverebbe. E perché mai allora permettete che io la intraveda adesso, come in una confessione, gli ho detto. E lui, perché altrimenti mi tormenterebbe così tanto che finirei col gridarla in mezzo alla strada, e questo non deve accadere, mai. Io sono qui per far vivere le anime dei miei parrocchiani, per fare in modo che si sognino immortali, e non per ucciderli. È necessario che qui vivano in modo sano, che vivano sentimenti unanimi, mentre con la verità, con la mia verità, non vivrebbero. Che vivano. E questo fa la Chiesa, farli vivere. Vera religione? Tutte le religioni sono vere, in quanto fanno vivere spiritualmente i popoli che le professano, in quanto li consolano di aver dovuto nascere per morire. E per ciascun popolo, la religione più vera è la propria, quella che lo ha fatto. E la mia? La mia è consolarmi nel consolare gli altri, anche se la consolazione che dono a loro non è la mia. Non dimenticherò mai queste sue parole. Vi segnalo oggi innanzitutto un libro di Folco Terzani, A piedi nudi sulla terra, pubblicato da Mondadori, 234 pagine, 18 euro. Questo libro riguarda l'incontro con un asceta indiano di origine italiana, Baba Cesare, che l'autore incrocia in un periodo della vita in cui approda in India alla ricerca di un equilibrio interno. Vi segnalo poi un'autrice siciliana, Natalia Milazzo. Il libro si intitola Cannoli e Polente, pubblicato da Flaccovio, 16 euro. Questo è un libro ironico, divertente, a tratti esilarante, sulle differenze tra nord e sud che vengono descritte su alcuni temi topici. Non c'è qui il campanilismo, non c'è il separatismo, ma certo la capacità di prendersi e di prendere un po' in giro sia il nord che il sud, da parte di una scrittrice che vive ormai a Milano senza trascurare le sue radici siciliane alle quali rimane molto legata. Un libro per i manager è quello di Francesco Varanini, Nuove parole del manager, 113 voci per capire l'azienda, è pubblicato da Guerini Associati, 256 pagine, 16,50 euro. Questo non è un'enciclopedia di management, ma un invito a trovare alternative al gergo manageriale inglese, soprattutto a difendere la propria creatività, nella quale si esprime la qualità del manager, che deve essere caratterizzato, secondo l'autore, dalla capacità di innovare e di saper fare sempre bene il proprio mestiere. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, parlavamo poco fa a proposito del libro di De Unamuno, di un prete senza fede, e allora restiamo sul tema della religione della Chiesa con una utile storia dei papi di John O'Malley, che è un gesuita americano nonché grande storico della Chiesa. Il libro è pubblicato da Fazzi, 376 pagine, 19,50 euro, e tradotto da Stefania Salomone. Questo libro è ricavato da una serie di conferenze alla radio ed è, come dicevo, un utile strumento per cogliere la storia di quella che, ricorda l'autore, è la più antica istituzione esistente nel mondo occidentale, un'istituzione sorta circa 2000 anni fa ma che appare oggi forse più vitale di quanto sia mai stata in tutta la sua storia, e cioè appunto il papato. Non occorre essere religiosi, dice l'autore, per essere interessati a queste istituzioni, visto il ruolo che molti pontefici hanno svolto, anche in tempi recenti. Da ultimo o da penultimo Giovanni Paolo II, che più volte è stato proclamato uomo del secolo. O'Malley non ci dà in questo libro una cronologia dei papi, ma ci dà una storia del papato attraverso dei ritratti anche molto umani di molti pontefici che naturalmente non hanno retto al giudizio della storia anche per le loro scarse qualità umane, ma che tuttavia si collocano nella storia di questa istituzione. E quindi, dicevo, il libro non è un elenco di papi, ma è soprattutto una periodizzazione attraverso alcuni momenti di snodo, momenti di crisi, momenti di grandi problematicità, nei quali sono emerse le caratteristiche vincenti di questa istituzione e soprattutto quella di sapersi adeguare e di saper sopravvivere. Per esempio, di Giovanni Paolo II, nel libro del Gesuita, viene sottolineato il costante sforzo di ripristinare o di ribadire il primato del Papa e quindi di sottoporre ogni decisione al volere di Roma e del Papa, come spiegano appunto queste righe che adesso vi propongo. Karol Wojtyla proveniva da una Polonia sotto assedio, dove la lealtà, l'unità e la capacità di resistere alle pressioni esterne erano i presupposti indispensabili per l'efficace azione contro il nemico. Queste rimasero le qualità che cercava in coloro che si impegnavano al suo fianco al servizio della Chiesa, specie nei teologi e nei vescovi. Per quel che riguarda i primi, scoraggiò qualunque tentativo di far passare considerazioni personali come posizioni ufficiali. Rispetto ai secondi, ribadì che il criterio base per la nomina dei nuovi vescovi fosse l'intenzione del candidato di schierarsi incondizionatamente col Papa su tutta una serie di tematiche potenzialmente esplosive. Questa considerazione superò virtualmente tutte le altre. Naturalmente, nel libro di O'Malley non si può trascurare di parlare del Concilio Ecumenico Vaticano II, che così il gesuita definisce nel disegno di Giovanni XXIII, il Papa che lo aveva convocato. Non si trattò del più grande raduno, scrive il gesuita, ma del più grande incontro inteso come assemblea riunita per deliberare. E una testimonianza su quella pagina, sul concilio e sul suo artefice Giovanni XXIII, viene da un libro intervista di Ernesto Preziosi all'ex segretario di Roncalli, Monsignor Loris Capovilla, classe 1915, che ha pubblicato con editrice La Scuola Ricordi dal Concilio, siamo appena all'Aurora, 160 pagine, 9,50 €. In effetti, scrive il curatore, è impossibile non riconoscere ciò che è effettivamente cambiato dal concilio. La Chiesa, aggiunge, oggi si percepisce come un soggetto che cammina nella storia con uno stile di ascolto e di dialogo, attenta ai segni dei tempi. Per questo, dice Capovilla, siamo appena all'Aurora, riprendendo qui un'espressione dello stesso pontefice, per sottolineare appunto che il cammino è appena iniziato. E proprio a questa espressione torna Capovilla per fugare ogni ombra di scoramento che magari può sorgere a proposito della condizione della Chiesa, soprattutto dopo il Concilio. E in queste pagine Capovilla ci dà una bella testimonianza innanzitutto del suo Papa, della fase di preparazione, poi dello svolgimento del Concilio stesso, che fu molto tormentato, come molti ricorderanno, e al centro di scontri storici all'interno anche della Chiesa. Per esempio dice Capovilla che ci furono momenti di tensioni dovuto al fatto che c'era chi prefigurava il Concilio come evento di normale routine, mentre altri miravano a staccarlo dai solchi della tradizione. Si manifestarono anche tensioni cariche di spunti polemici, sui quali torneremo dopo. E naturalmente non mancano degli riferimenti molto interessanti al rapporto tra il Vaticano e la Chiesa d'allora e la politica, in particolare la politica italiana, anch'essa in un periodo di grande cambiamento. E a proposito delle tensioni conciliari e post-conciliari, vi segnalo il libro di Giovanni Miccoli, un altro storico della Chiesa, La Chiesa dell'Anticoncilio, i tradizionalisti alla riconquista di Roma, pubblicato dalla Terza, 420 pagine, 24 €. Si parte naturalmente dalle vicende molto note del vescovo francese Lefebvre, il vescovo tradizionalista che aveva rotto con la Chiesa proprio per rivendicare la tradizione tridentina e che rifiutava il concetto stesso di dialogo sul quale si era fondata la visione di Giovanni XXIII, come scrive infatti Miccoli nelle prime righe del suo libro. Il grande accusato, secondo Lefebvre, era proprio il dialogo. La Chiesa non dialoga, converte. Per Lefebvre era la volontà di dialogo con i protestanti che ha prodotto, virgolette, la citazione di Lefebvre, questa messa bastarda, questi riti bastardi, chiuse le virgolette. Dai tempi di Lefebvre molte cose sono cambiate. La Chiesa cerca di reintegrare, soprattutto con Benedetto XVI, i tradizionalisti, e al vertice anche della Curia si insiste sull'esigenza di interpretare correttamente il Concilio, con il rischio, nota Miccoli naturalmente, di finire col riconoscere come valide alcune delle critiche così veementemente espresse dallo stesso Lefebvre. Insomma, secondo Miccoli, il rischio è quello di dargli di fatto ragione. E in questo libro, che non è un libro di polemica ma è un libro storico, viene ripercorsa la storia dello scisma e poi degli sforzi successivi per ricomporlo. Miccoli ritiene che Benedetto XVI apprezzi non pochi aspetti delle critiche di Lefebvre, dei seguaci del quale al Papa attuale piacerebbe soprattutto l'impegno a combattere quella scristianizzazione che egli, Benedetto XVI, paventa come il grande rischio per la Chiesa di questo millennio. E qui la questione naturalmente diventa anche teologica, e infatti in questi termini lo affrontano le ultime pagine del libro, certo non simpatetiche nei confronti dei tradizionalisti, dei quali per esempio vengono anche denunciate le ramificazioni politiche di destra che, secondo Miccoli, si sarebbero anche manifestate nelle celebrazioni dell'Unità d'Italia. Ma al centro, dice lo storico, rimane il tema del magistero del Papa, sul quale probabilmente si giocherà effettivamente ogni possibilità di intesa e di riconciliazione e anche di una condivisa interpretazione del Concilio Ecumenico. Un prete progressista, uno dei più noti del Novecento, è Don Primo Mazzolari, vissuto tra il 1890 e il 1959, di cui viene pubblicato Come pecore in mezzo ai lupi, da Chiare Lettere, 126 pagine, 7 euro. Questa è un'antologia che presenta alcuni scritti del prete che aveva avuto grandi problemi con le gerarchie ecclesiastiche e con il fascismo per le sue posizioni eterodosse o considerate tali. Ci sono molti temi che vengono affrontati in questo libro, per esempio quello della tolleranza che nel 1948, nel pieno dell'impegno anche della Chiesa contro il comunismo, gli fece scrivere queste righe. Il genio della libertà viene contraddetto e negato anche dalla troppa sicurezza o dogmaticità delle proprie opinioni politiche, che per molti è basata soprattutto sul numero di coloro che dicono di pensare allo stesso modo, sol perché muniti di tessera e distintivo uguale. Quando si è in tanti si ha tanta ragione, quando si è i più forti si ha sempre ragione. Una ragione che bisognerà presto rimettere o impersonare in un uomo con la U maiuscola. Ripeto, righe del 48 che naturalmente non potevano passare inosservate e non potevano renderlo simpatico al clima del tempo. Un altro religioso troviamo nel libro che vi presento. Questo è un benedettino, si chiama Anselm Grün ed è l'economo, anzi come dicono loro il cellerario di un'abbazia benedettina in Baviera che dà lavoro a oltre 300 dipendenti. Insomma, un religioso manager che si confronta con un manager laico, l'ex amministratore delegato di Puma, Jochen Zeitz. Nel libro Dio, i soldi e la coscienza, un monaco e un manager in dialogo, è pubblicato dalle Paoline, 318 pagine, 24 euro, ed è tradotto da Dario Rivarossa. Cosa possono avere in comune i due personaggi? Lo scrivono loro stessi, entrambi siamo a favore della tutela dell'ambiente, di una società migliore, ed entrambi ci diamo da fare non solo all'interno dell'azienda ma anche fuori. Come manager dobbiamo entrambi imparare a operare senza danneggiare le persone e l'ambiente. Come persone dotate di spiritualità cerchiamo modi per realizzare noi stessi una fratellanza tra noi, senza tuttavia perdere di vista le regole della sana economia. E allora approfondiscono questa solidarietà in una serie di voci che si sono ripartiti. Il monaco introduce il tema dell'ambiente, del benessere, dei valori, della formazione, educazione, dei pregi e difetti, della consapevolezza, il manager della sostenibilità, dell'economia, della cultura, del commercio etico, del successo e della responsabilità, e poi ogni introduzione viene commentata dalla controparte che dà vita quindi a un dibattito su questi diversi temi. E per esempio sull'economia il manager insiste sull'importanza delle regole mentre il monaco sull'importanza dei valori, oppure sul benessere. Il benedettino richiama sull'importanza di creare climi nei quali si sia contenti di lavorare, mentre il manager scrive che le persone che aderiscono a una religione o che perlomeno hanno una vita spirituale sperimentano un tipo di benessere che non dipende solo dal denaro. Chiunque percepisca, aggiunge, che una potenza superiore ha a cuore le sue necessità si sente ricco, indipendentemente dall'entità del proprio conto in banca. È un po' come godere di una polizza di assicurazione onnicomprensiva. E a questo punto... Il confettino. Vi segnalo oggi due libri della stessa autrice utili per accostarsi in modo nuovo alle fiabe classiche. L'autrice Silvia Roncaglia pubblica con Fanucci i due libri, cioè Gli stivali raccontano il gatto e Lo specchio racconta. Il primo naturalmente racconta Il gatto con gli stivali e il secondo Biancaneve. I libri sono illustrati, il primo da Cristiana Ceretti, il secondo da Paolo Daltan e costano ciascuno 9,90 euro. Le due immortali favole sono raccontate da questi due, anzi tre protagonisti, due stivali e uno specchio, normalmente trascurati. Due personaggi che ci danno il loro punto di vista nella storia che poi potremo far riscoprire ai nostri piccoli lettori nelle versioni classiche. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Roberto Scaltritti, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it sul quale potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.